Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi approfondiamo la conoscenza con un personaggio che fa parte dell'immaginario letterario e non soltanto europeo, il cosiddetto flâneur, colui che passeggia, colui che va a spasso, che dà il titolo al saggio di Alberto Castoldi, che è un francesista dell'Università di Bergamo, il flâneur appunto, Viaggio al cuore della modernità, pubblicato da Bruno Mondadori, 174 pagine, 18 euro. Che cos'è il flâneur? Ci spiega l'autore che questo termine compare nell'Ottocento a designare, scrive, un comportamento che si propone come fenomeno sociale significativo nel contesto della realtà borghese, quindi il gesto, la decisione di passeggiare senza un particolare scopo, quello di raggiungere una meta, di compiere un pellegrinaggio, di compiere una spedizione militare, diventa appunto un gesto quasi rivoluzionario. L'uomo infatti ha sempre viaggiato, magari affrontando dei grandi rischi, il flâneur invece è colui che passeggia nello spazio urbano e viaggia non soltanto con i piedi ma anche con lo sguardo, mostrando con la mobilità di cui dà prova la capacità, scrive l'autore, di cogliere le immagini. E dunque si parte in questo libro dall'oggetto dal quale lo sguardo vaga per definizione, cioè la finestra con la quale si misura la pittura, della quale appunto la finestra è la scena primitiva. Poi lo sguardo si fa sempre più vasto, irrompe fuori dalla finestra e ha per palcoscenico, diciamo, lo spazio urbano, lo spazio dove passeggia la folla. E questo fa cambiare radicalmente il punto di vista. Scrive infatti l'autore che cambia la percezione della città e delle sue pratiche sociali e ne nasce quindi una tradizione che ha al centro della propria storia soprattutto Parigi e alcuni fra i maggiori intellettuali dell'Ottocento. E ne parliamo adesso con l'autore. Buonasera ad Alberto Castoldi. Buonasera a lei. Alberto Castoldi, lei nel suo libro a un certo punto dice che passeggiare diventa quasi una rivoluzione. Ecco, in che senso questa rivoluzione si fa attraverso la passeggiata? Effettivamente, un conto è il camminare, e questo risolve i problemi delle necessità quotidiane, e un conto è decidere di camminare per il piacere di camminare. Questo richiede che ci sia uno spazio in cui tutto questo possa avvenire e soprattutto abbia un senso. Allora, questo è un fenomeno abbastanza recente perché in genere le città piccole non consentivano questi spazi ludici in qualche modo. È la grande capitale, è Parigi e Londra, che consente di fare questa operazione. La partenza, se vogliamo, lo spunto viene da Londra, perché Londra è la prima a istituire i marciapiedi, quindi uno spazio in cui non ci si infanga, in cui le macchine, le carrozze ovviamente minacciano i passanti, e quindi si è al riparo e si può osservare le vetrine. Parigi copierà questo modello inglese, quindi c'è in qualche modo un atto di nascita che è fra fine del Settecento e inizio dell'Ottocento. Parigi copia, però diventa un po' il centro di questa rivoluzione poi nell'Ottocento. Effettivamente sì, perché Parigi improvvisamente diventa un punto di riferimento per tutta l'Europa, innanzitutto con quelli che sono i grandi boulevard, quindi spazi concepiti essenzialmente per il passeggio, per il piacere di osservarsi, non si osservano solo le vetrine ovviamente, ma anche gli altri passanti, ci si incontra, ci si saluta, e quindi c'è una ritualità del passante. E poi nei grandi boulevard ovviamente ci sono tutta una serie di attività minori, per esempio coloro che puliscono le scarpe che vengono fotografati per l'appunto in alcune delle prime immagini fotografiche dell'epoca, tanti altri piccoli mercatini, poi le baglie che accompagnano i bambini a giocare nei parchi. C'è un mondo variegato e complesso che finalmente ha possibilità di dispiegarsi perché è più protetto in quegli spazi, perché lo sappiamo da Baudelaire, attraversare le strade era un rischio gravissimo, perché fermare le carrozze impazzite è veramente difficile, tant'è che Baudelaire dice: io ho perso emblematicamente la mia aureola, ma non vado certo in mezzo alla strada a recuperarla, perché rischierei moltissimo. E infatti il suo modello di dandy e di flâneur, che è il pittore Constantin Guy, finirà proprio travolto dalle carrozze materialmente e morirà. Il flaneur è un aristocratico intellettuale, come lei l'ha appena definito, ma è anche molto attento alle merci. C'è su questo un capitolo in cui lei ricorda la posizione di Walter Benjamin. Nel senso che il flaneur, in quanto interprete della modernità, questo secondo l'ottica di Baudelaire, diventa anche l'osservatore privilegiato, in qualche modo ottiene una sorta ideale di mandato dalla collettività a farsi interprete degli aspetti innovativi della società in cui si vive. E questo flaneur allora diventa una sorta di aristocratico intellettuale, una sorta di dandy, quindi che non è coinvolto nelle vicende quotidiane, se ne astrae e può utilizzare uno sguardo indagatore che è proteso a cogliere il nuovo, l'effimero, la moda, e quindi si concepisce in qualche modo come un essere al di sopra degli altri, ma in grado di compiere lui solo la sintesi di tutto quello che di nuovo si svolge nel ritmo infernale di una grande città. Lei ha parlato di aristocratico intellettuale, però un aristocratico intellettuale molto attento alle merci. C'è un capitolo dedicato a questo che parte da Walter Benjamin. Assolutamente, perché nel frattempo cambia la fisionomia, ma anche il ruolo dell'intellettuale. Se per Baudelaire si trattava di osservare la nuova dinamica della città che sorge, che cambia più presto, dice, dei sentimenti umani, invece uno dei più grandi appassionati di Parigi, appunto Walter Benjamin, scopre che in realtà Parigi è un gigantesco serbatoio di merci. La gente si sposta, in particolare il mondo femminile, per andare nelle vetrine, a vedere le vetrine, per andare a frequentare i grandi magazzini dove magari si dispiega tradizionalmente, ma anche l'inizio di tutta una vicenda, la fiera del bianco, per attrarre appunto il mondo femminile a fare gli acquisti. E poi ovviamente ci sarà l'esposizione universale, grande luogo di esposizione delle merci, e soprattutto ciò che adorava Walter Benjamin, i passaggi. I passaggi sono una realtà tutta parigina, certo poi si sono diffusi in tutta Europa, ma la Parigi è stata in qualche modo l'iniziatrice di questa moda dei passaggi, che sono degli spazi che attraversano un edificio, quindi interni all'edificio stesso, e lì c'è tutta una sequenza di vetrine, di negozi, che si possono osservare tranquillamente, perché nei passaggi non è consentito appunto il passaggio delle vetture, delle biciclette, di tutto ciò che in qualche modo guasterebbe il piacere di soffermarsi a guardare le merci. Allora Benjamin vede che tutto il ruolo del flaneur è funzionale ormai, quando lui comincia a osservare Parigi all'inizio del Novecento, è diventato funzionale alle merci. Ecco, lei ha affrontato un tema che da queste parti ci è molto caro, quello dell'esposizione universale, dell'Expo. Secondo lei la prossima Expo di Milano potrà cambiare il rapporto anche dei visitatori con la città? È ancora valido questo meccanismo che funzionava a fine 800 e primi del 900? Direi relativamente, e dipende da come di fatto, forse ancora un po' misteriosa questa Expo, ma nel senso che in genere le Expo sono diventate così mastodontiche da diventare in qualche modo collaterali alla città, però sicuramente sono un luogo in cui il flaneur, che diventa un voyeur, osserva le merci, per cui in qualche modo riprende questa problematica. Mi sembra che l'Expo italiana sia finalizzata alla natura, in qualche modo alla produzione dei prodotti naturali, e quindi forse questo può ulteriormente incrementare il piacere della passeggiata. Tenga presente però che un personaggio quanto mai ostico come Rimbaud, uno degli intellettuali più difficili con cui ci si possa misurare, a un certo punto dichiara: piacerebbe anche a me essere esposto come merce all'esposizione universale di Parigi. Cioè, alla realtà il gusto del passeggiare, ma anche del misurarsi con la fascinazione, con la seduzione delle merci, è così forte che si vorrebbe quasi diventare merci essi stessi, insomma gli osservatori, quindi i flaneur. Grazie ad Alberto Castoldi, autore di Il Flaneur. Buona serata. Buona serata. In montagne canta Mi piace passeggiare sui grandi boulevard e ci introduce a un altro viaggio per Parigi, un viaggio particolare, quello di uno dei più grandi intellettuali del Novecento, Edgar Morin, che si intitola La mia Parigi, miei ricordi, pubblicato da Raffaello Cortina, 242 pagine, 16 euro, tradotto da Susanna Lazzari. A Parigi Morin nasce nel 1921 e in questo libro ci dà della sua città un'immagine struggente e poliedrica, accompagnando al testo anche tante immagini della Parigi di una volta e con tanti riferimenti alle varie arti che a Parigi fiorirono, dalla canzone appunto al cinema. La canzone di Montaigne è proprio citata da Morin come simbolo di quello che Morin stesso amava di Parigi. Nella capitale francese il filosofo scopre appunto il piacere di andare a spasso, scrive: mi attardavo davanti alle vetrine delle librerie alla ricerca di romanzi, mi piaceva l'animazione che regnava sui larghi marciapiedi, adoravo la poesia del passage du Verdot e del passage Panorama, vie pedonali coperte, costeggiate da curiose vetrine come quella di una libreria d'occasione dove io sfogliavo i libri. Sembra anche questo un richiamo al libro di Castoldi. Poi naturalmente viene il periodo drammatico dell'occupazione tedesca, Morin entra nella resistenza, torna a Parigi sotto falso nome e poi l'esplosione nel secondo dopoguerra della città che diventa una grande capitale culturale, scrive Morin. Saint-Germain-des-Prés allora in fiore, il centro della fauna intellettuale e artistica dell'epoca, che frequenta le Flore, le Demagogues, le Bonaparte. Il ristorante Lip si divide tra intellettuali e uomini politici. In quegli anni Morin comincia anche a nutrire dei dubbi sul comunismo nel quale aveva aderito negli anni precedenti, e a questi dubbi contribuisce la conoscenza che fa col liberale Raymond Aron. Molti intellettuali verranno espulsi dal partito, lui si qualifica all'inizio come un dissidente culturale senza osare ancora diventare dissidente politico, e nel libro troviamo anche questo viaggio nella propria coscienza, questo viaggio che lo porta a diventare epurato, anche perché a un certo punto osa sfidare il partito difendendo il premio Nobel Gide, odiato invece dai comunisti. E proprio le difficoltà col partito lo avvieranno alla professione di studioso e gli faranno imboccare la strada del dissenso politico, pur in situazioni che, scrive Morin in questo libro, riescono ad asfissiare la sua coscienza. Nel 1951 finalmente viene espulso dal Partito Comunista ed esce il suo primo libro, ma naturalmente la vivacità intellettuale continua, Morin diventa un protagonista della cultura contemporanea e questo libro ci offre tutte le tappe del suo percorso. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato della durezza dello scontro ideologico nella Francia e nella Parigi del dopoguerra. E allora vi segnalo due libri molto diversi fra di loro, ma a modo loro complementari, su un particolare aspetto di questo scontro che ha avuto come palcoscenico però l'Italia, del quale forse non ci siamo ancora del tutto liberati: lo scontro tra comunismo e socialismo democratico e più di recente tra i partiti eredi di queste due tradizioni, cioè il Partito Comunista nelle varianti che poi ha assunto dopo la caduta del Muro di Berlino e il Partito Socialista. Il primo libro di cui vi parlo è quello di un protagonista dell'ultima fase della Prima Repubblica, Claudio Martelli, che fu collaboratore strettissimo di Craxi, vice segretario del partito, di fatto il leader del PSI quando Craxi conquistò Palazzo Chigi, e poi fu ministro della giustizia e in quella veste chiamò subito Giovanni Falcone come suo più stretto collaboratore. Di Martelli esce l'autobiografia che si intitola Ricordati di vivere, pubblicato da Bompiani, 598 pagine, 19,50 euro, un libro interessante non solo per lo squarcio su quel periodo ma in particolare su due aspetti. Il primo è lo sforzo che fece il Partito Socialista, o almeno una parte del Partito Socialista, di rinnovare il proprio bagaglio culturale e ideologico, accentuando l'adesione alla socialdemocrazia e la lontananza del comunismo che in quegli anni, ricordiamo, era in pieno fulgore. L'altro aspetto, naturalmente, è un aspetto umano che riguarda il rapporto con Craxi, un rapporto difficile e, a leggere le ultime pagine del libro, anche lancinante, perché di Craxi, come dicevo, Martelli fu uno dei più stretti collaboratori, ma alla fine questo rapporto si incrinerà. quell'amicizia fraterna sfocia in un distacco per la china che, secondo Martelli, il Partito Socialista aveva preso e che emerse con Tangentopoli, una china che Martelli, scrive qui, cerca di arginare, ricorda gli sforzi che egli fece, chiedendo un rinnovamento profondo del partito e entrando appunto in rotta di collisione con Bettino Craxi, di cui tra l'altro ricordo che fra qualche giorno ricorrerà l'80° anniversario della nascita. E qui appunto avviene la rottura con Craxi, una rottura che diventa anche umana, politica, e che illumina il fallimento delle illusioni precedenti. Nel libro di Martelli non mancano tanti riferimenti a temi attuali, per esempio il nucleare, lo Ius Soli, il Monte Paschi di Siena, la corruzione che, nota Martelli, Mani Pulite non riuscirà affatto ad estirpare. Anzi, ricorda Martelli nelle ultime pagine del libro, che dopo Tangentopoli la corruzione è aumentata, non è diminuita, e ricorda anche, citandolo espressamente, una famosa frase di Francesco Saverio Borrelli, il procuratore capo di Milano che fu l'animatore di Mani Pulite di Tangentopoli, e che a un certo punto dovette ammettere: chiedo scusa per il disastro seguito a Mani Pulite, non valeva la pena di buttare il mondo precedente per cadere in quello attuale. Così Borrelli. E sentiamo dalle ultime pagine del libro di Martelli un ritratto di Craxi che al termine della sua parabola gli apparirà assolutamente irriconoscibile. Il suo umanesimo era incardinato su impulsi contraddittori. Il senso della realtà è un'impulsività irruente, la costanza nelle grandi cose e l'incostanza impaziente in tutto il resto. La solidità e l'umoralità, l'onnipotentismo e le fragilità improvvise, l'avidità pantagruelica e il gusto della cucina povera, la bulimia esistenziale e il sogno come di un'aia contadina ricca solo di canto, di risa, di donne, il piacere di accumulare e il fastidio del lusso, il rifiuto dell'estremismo e la piena comprensione dell'estrema violenza della lotta politica, l'orrore della solitudine non finalizzata a misurarsi con gli altri, a prepararsi all'incontro, all'agorà, alla battaglia, la vita come dovere e come godimento, entrambi, dovere e godimento, praticati fino a stordirsi nella compulsione, fino a elevarsi nel sacrificio, e, più potente di ogni altra ispirazione, vero centro nervoso, un anelito demiurgico, inventare e comandare, inventare per arrivare al comando, comandare per realizzare le proprie invenzioni. L'altro libro, anch'esso di taglio autobiografico, è quello di uno scrittore e sceneggiatore, Francesco Piccoli, e si intitola Il desiderio di essere come tutti. È in Audi, 268 pagine, 18 euro. Ho enfatizzato il tutti perché anche nella copertina questa parola è scritta in corpo molto grosso, è scritto in rosso, e questa evidenza grafica richiama un elemento di contenuto, perché questo tutti vuole richiamare il titolo dell'unità sui funerali di Berlinguer. Berlinguer è il protagonista indiretto in qualche modo di questo libro. Per certi versi egli fu il nume tutelare dei comunisti, di coloro che come Piccolo si affacciavano molto da giovani al partito, ma, scrive Piccolo qui, è anche stato il simbolo di un'amara sconfitta politica, una sconfitta che in qualche misura segna la parabola dell'autore, il quale diventa comunista da piccolo, come dicevo, più per un orientamento morale che non per effetti di una convinzione profonda. Sono quelli gli anni dello scontro più duri tra il Partito Socialista di Craxi e il Partito Comunista di Berlinguer, quando quest'ultimo partecipa al congresso dei socialisti a Verona, poche settimane prima della sua drammatica scomparsa, verrà fischiato in maniera plateale dal congresso. Piccolo non perdona il Partito Socialista e Craxi per quella umiliazione a cui sottoposero in quell'occasione Berlinguer, ma la sua fede non risulta mai cieca. Fin da piccolo, infatti, Piccolo tende a mantenere la sua libertà d'opinione. È significativo che quando da giovane si accosta alle letture consigliate dalla sinistra, per esempio al libro della Cederna sul presidente Leone, nota con costernazione e con disappunto quanto sia forte la carica pregiudizio contro il presidente della Repubblica. E quello, dice, fu un momento importante. Si è trattato di un momento di un atto di autonomia di pensiero. Dopodiché, scrive lo stesso Piccolo, egli si infila nel mio schieramento senza più pensare alla lucidità, una lucidità che recupererà negli anni successivi. Piccolo infatti riconosce che, concluso l'esperienza del compromesso storico di Berlinguer, quest'ultimo imboccò una linea di isolamento del suo partito che rese il Partito Comunista e la sinistra, anche dopo Berlinguer, assolutamente autoreferenziale, un partito puro e reazionario, così lo definisce. Ma sentiamo qui come Piccolo descrive l'involuzione della sinistra provocata proprio dalla reazione al craxismo, una posizione dalla quale la sinistra non si è ancora del tutto corretta, come ha dimostrato anche la lunga opposizione a Berlusconi. La questione definitiva della sinistra alla quale mi sentivo di appartenere senza alcun dubbio fu questa. Craxi rappresentava un'innovazione troppo cinica, disinvolta, corruttibile, poco oggettiva e famelica. Di conseguenza, e questa è stata una transizione di pensiero del tutto decisiva per la storia della sinistra italiana, fu l'innovazione stessa a significare cinismo, disinvoltura, corruttibilità, famelicità. La sinistra si ritirava per sempre e con assoluta convinzione, sicura di stare dalla parte della ragione, dal proposito del progresso per trasformarsi in forza reazionaria. Dall'entrata mancata nel governo e dal rapimento di Moro nasce un'idea di purezza, interpretata come un destino, che non morirà più. Quello che Moro aveva temuto si verifica alla lettera. Il PC diventa interlocutore esterno della realtà, ma quello che Moro indicava come un pericoloso punto di forza diventa una condanna alla marginalità, alla sconfitta. È qui che sta il grande cambiamento. Della vittoria non importava più nulla. Bisognava soltanto segnare una volta e per sempre una linea di demarcazione, un'idea definitiva di diversità. Bisognava sfilarsi dalla vita pubblica reale e rappresentare un'alternativa astratta, pulita, arroccata, un'alternativa pura. Anzi, Piccolo osserva dopo che la purezza, scrive, sta tornando con energia inarrestabile. È tornata prepotente l'idea che l'etica sia l'unico spazio, l'unico mezzo e l'unico fine della vita pubblica. Non ce ne sono e non ce ne devono essere altri, non importa nessun'altra cosa che quella. E questo ha finora condannato la sinistra alla sconfitta, come amaramente riconosce lo stesso autore. Un giudizio su Marx? Forse non le ha sbagliate tutte, anzi, dice decisamente che aveva ragione il vecchio filosofo Terry Eagleton, che è un docente inglese che ha pubblicato il libro Perché Marx aveva ragione. Lo ha pubblicato Armando Editore, 240 pagine, 19 euro, il libro è tradotto da Antonio Di Stefano. L'autore parte da un quadro sconfortato della realtà, parla di alienazione, mercificazione della vita sociale, di cultura fatta di avidità, di aggressività, di un egoismo insensato, di un crescente nichilismo, di costante emorragia di senso e valore che affligge l'esistenza umana. Su simili questioni aggiunge: difficile trovare una discussione intelligente che non sia seriamente indebitata nei confronti della tradizione marxista. E allora l'autore passa in rassegna 10 critiche rivelatesi a suo parere fallaci: la critica sulla fine del marxismo, sul fallimento il marxismo dà vita quando viene messo in pratica, il fallimento del determinismo, dell'utopismo, dell'economicismo, del materialismo, del classismo, della violenza, dell'onnipotenza dello Stato e del fatto che non abbia favorito il cambiamento. E tutte queste accuse vengono puntualmente smontate e ne emerge un Marx molto lontano da come il suo modello si è realizzato. Scrive infatti il filosofo che Marx crede fortemente nell'individuo e nutre dei profondi sospetti sospetti verso il dogma astratto. Non tollera l'idea di una società perfetta, è diffidente nei confronti della nozione di uguaglianza e non sogna un futuro in cui ciascuno di noi indosserà una tuta da lavoro con il numero di previdenza sociale scritto sulla schiena, ciò a cui punta la diversità, non l'uniformità. Quindi appunto una lettura molto diversa da quella che tanti altri pensatori danno di Marx. È certamente un libro per nostalgici e non solo, e comunque per chi crede che il capitalismo sia il capolinea e che occorre cominciare a organizzarsi per costruire il dopo. E con Marx vi segnalo un dialogo, un'intervista immaginaria scritta da Donald Sasson, che è un noto storico contemporaneo, allievo di Erich Hobsbawm, che è stato uno dei più grandi storici marxisti del secolo scorso. L'intervista si intitola Intervista immaginaria con Karl Marx, è pubblicata da Castelvecchi, 48 pagine, 6 euro, ed è tradotto da Leonardo Clausi. Il tentativo dello storico è qui quello di ricostruire quel che è di Marx e quel che farina dell'intervistatore, e in questo modo vuole restituire un Marx vitale, almeno spiritualmente, volitivo e combattivo, tutte qualità che non abbondano nella sinistra ad oggi. Rispondendo infatti allo storico, Marx nell'intervista immaginaria dichiara che il suo lavoro non è mai stato importante come adesso. Marx si rende conto che la dittatura del proletariato non si affermerà più, ma aggiunge che il capitalismo dovrà sempre vedersela con piccole sette, scrive, che giocano alla rivoluzione, o il gruppo dei no global, quelli che si oppongono alla globalizzazione, che rappresentano un misto di tentativi frammentati, aggiunge, ma meglio di niente, almeno si oppongono al capitale, ma non cambieranno il mondo e men che meno lo spiegheranno. E a questo punto il confettino. Oggi vi propongo Cerchiamo Insieme, pubblicato da Chimera Editore, ne è autrice Anna Crespi e ha i disegni di Gianni Ravelli, 78 pagine, 10 euro. Questo libro parla di una bimba persa nella nebbia dopo aver fatto il giro del mondo per cercare la mamma. Nella nebbia incontrerà una nonna speciale con la quale nascerà questo libro colorato e anche una nuova conoscenza del mondo e della vita. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Fabio Cantadori, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.